Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Per me non è un sabato tanto allegro, mi fa molto effetto, come potete immaginare, la notizia della settimana, quella della Brexit. Ne abbiamo parlato per tanto tempo, noi abbiamo cominciato a parlare di questo referendum da parecchi mesi, da quando il Premier Cameron lo aveva indetto, e adesso tutti a posteriori, ma è sempre facile, dicono che quello è stato l'errore, che Cameron si era sentito forte della sua vittoria alle elezioni politiche e essendo sfavorevole alla Brexit, concedeva questo referendum sicuro che non i britannici avrebbero votato per Remain e invece hanno votato per Leave, anche se con i margini che tutti conosciamo. Ne abbiamo parlato per tanto tempo, molti di noi si sono addormentati giovedì sera con un Remain e si sono svegliati venerdì mattina con un Leave. Naturalmente tutti i giornali il giorno dopo, ma già dalla notte sui siti, si sono concentrati su questo, si sprecano non solo le cronache sui voti, la dissezione del voto per generazioni, per classi sociali, per varie zone geografiche del Regno Unito, ma anche naturalmente le analisi su quello che verrà. E allora vi volevo fare prima di tutto una panoramica di quelle che sono state le reazioni a caldo. Allora, per esempio, l'Independent, che è un quotidiano inglese, che lo dice la parola stessa, lo è davvero anche di fatto, ha cercato di cogliere comunque con fair play, potremmo dire, le dichiarazioni di Nigel Farage, che purtroppo è il leader degli UKIP, e addirittura giovedì sera, giovedì notte, venerdì mattina molto presto aveva detto di essere molto deluso, perché comunque avrebbe accettato il parere dei suoi concittadini. Poi quando il risultato è stato ribaltato, naturalmente lui ha esultato, e quindi l'Independent ha scelto proprio le sue parole, che sono state: i britannici votano per la Brexit e lasciamo l'Unione Europea senza neanche sparare un colpo. Il Guardian e il Times, anche loro molto, il Guardian più del Times è un quotidiano davvero autorevole, il Guardian rispetto al Times è un pochino più schierato a sinistra, ma qui davvero c'entra poco, perché poi la stampa anglo siamo noi in Italia e in altri paesi abituati a dare delle etichette politiche ai giornali, qui si tratta semplicemente appunto di autorevolezza o meno. Il Guardian e il Times quindi avevano dei titoli molto molto neutri: i britannici votano per la Brexit. Questo è tant'è, niente di più, niente di meno. Da qui appunto vi dicevo, è interessante anche vedere le reazioni nei vari paesi, perché Le Figaro, come del resto Libération, e qui davvero possiamo dire Le Figaro quotidiano conservatore, Libération quotidiano più orientato verso sinistra, con titoli molto simili: la Brexit vince, onda di shock. Più diciamo neutri è il mondo e il país, che titolavano Goodbye, il Regno Unito lascia l'Unione Europea. Il New York Times e il Washington Post a loro volta hanno seguito molto questi risultati delle elezioni. Mi ha stupito di più il titolo del Wall Street Journal, che ha scritto il Regno Unito si ribella alla burocrazia europea, che forse è un po' una semplificazione. Vi segnalo così come curiosità, anche perché lo avrete letto, lo avrete sentito tutti, siamo proprio all'inizio, siamo in una. Adesso navigano un po' tutti a vista, nel senso che in Gran Bretagna esiste la formula del referendum consultivo, che in Italia non esiste, cioè qui si è chiesto ai britannici volete o no una cosa, però in realtà questo desiderio popolare deve essere poi ratificato dal Parlamento, e questo accadrà tra qualche mese, ma ci sono state naturalmente subito le serissime, potremmo dire, dimissioni del Premier Cameron, che anche quelle però diventeranno operative tra qualche mese dopo l'estate. Quindi è tutto un po' un esercitarsi in tanti commenti e scenari, senza forse tener conto che, a parte la reazione quasi isterica di tutte le borse, quelle asiatiche già nella notte tra giovedì e venerdì e tutte le altre nella giornata di venerdì, a parte questa reazione che è concreta, tangibile, misurabile, tutto il resto andrà considerato appunto con lo scorrere delle settimane e dei mesi. Ma per questo vi segnalo un articolo che io ho trovato Sì, irriverente, però insomma di quell'ironia secondo me assolutamente sopportabile, pubblicato dal quotidiano tedesco Bild, che come sapete è un tabloid a larghissima diffusione, forse uno dei giornali più diffusi in Europa, ma secondo alcuni come copie lette si arriva ai 5-6 milioni, è un quotidiano potremmo dire anche un po' scandalistico e l'articolo era interessante perché diceva con ironia appunto se voi britannici ci promettete di non lasciare l'Unione Europea come se anche un quotidiano populista avesse percepito quanto comunque negativa sarà anche solo nell'immaginario proprio culturale e popolare questa uscita dell'Unione Europea, uno dei del Regno Unito dall'Unione Europea. Il Regno Unito è uno dei membri fondatori dell'Unione Europea. Io questo l'ho detto tante volte e lo ripeto anche oggi. Quindi è anche per questo che fa molto effetto. Non è proprio l'ultimo staterello annesso in quella che poi alcuni hanno considerato una espansione esagerata dell'Unione Europea, ma proprio uno dei 6 paesi fondatori. In ogni caso, anche la Bild, secondo me, ha percepito questo e quindi nei giorni precedenti aveva detto: se ci promettete di restare nell'Unione Europea, noi vi promettiamo di non fare più una serie di cose, tra le quali smettere di scherzare sulle orecchie del principe Carlo, riconoscere il gol di Wembley, la contestata rete inglese alla finale dei mondiali del 1966, oppure ancora faremo a meno del portiere nel prossimo calcio di rigore, vi daremo un cattivo per tutti i prossimi James Bond. E poi il quotidiano proponeva di portare indietro di un'ora le lancette degli orologi tedeschi per allinearsi a quelli britannici che, come sapete, hanno un fuso, il cosiddetto GMT, Greenwich Mean Time, che è un'ora indietro rispetto a Roma, rispetto all'Europa continentale, possiamo dire. E poi proporremo anche, diceva la Bild, una direttiva dell'Unione Europea che vieti la schiuma sulla birra, che sapete che gli inglesi tolgono con i loro arnesi appositi. Era purtroppo, probabilmente la Bild si augurava che insomma che fosse appunto tutto finisse un po' in scherzo e come dico poi magari ci saranno anche, anzi ci sono stati, li abbiamo visti, pareri che tutto sommato considerano questo voto non così grave. Per me è comunque abbastanza uno shock effettivamente e quindi dico purtroppo la Bild ha usato questa ironia forse sperando che tutto finisse lì e invece come abbiamo visto poi nonostante pareri dei bookmakers che tutti davano come veramente autorevoli, se i bookmakers danno il remain per vincente, i bookmakers sono più affidabili dei sondaggi, hanno sbagliato anche loro. Un altro aspetto, abbiamo accennato, una delle primissime reazioni, anche questa molto concreta, molto misurabile e non credo che ci saranno marce indietro, sono state le dimissioni di David Cameron. Su questo è tornato anche il Wall Street Journal e, scrivendo che il risultato del referendum si è abbattuto come un ciclone su David Cameron e poi il Wall Street Journal ha subito però fatto di nuovo ricorso ai bookmakers che si sono già incuranti, così completamente incuranti delle loro previsioni sbagliate sulla Brexit, hanno subito iniziato a esercitarsi sulle quote per il possibile successore di David Cameron. Sapete che molti danno Boris Johnson, che è l'ex sindaco di Londra, conservatore, come candidato più probabile, mentre sarebbe lontanissimo il leader degli euroscettici, degli UKIP, Farage, appunto, come che abbiamo citato all'inizio. Vi segnalo anche tutte le reazioni del mondo finanziario, queste le ha date soprattutto l'agenzia Bloomberg, con una serie di dati che poi sono stati riportati anche in Italia, riprendendo un po' le agenzie internazionali, perché poi la City è la sede, come sappiamo, di tantissime banche d'affari e, per esempio, per quanto riguarda le conseguenze per l'Italia dal punto di vista proprio macroeconomico, dobbiamo partire da questo dato che l'Italia esporta verso il Regno Unito il 7% dell'export totale, cioè 22 miliardi di euro. Sulla base di alcune valutazioni, come quelle fatte dal chief economist di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, nella peggiore delle ipotesi si potrebbe registrare un calo di 3 miliardi. Quindi, come si era detto anche qui, alla vigilia, è più un effetto visto egoisticamente dalla parte italiana, italiana è più un effetto psicologico che non davvero tangibile dal punto di vista economico. Vi segnalo infine un articolo molto interessante che trovate anche online su ispi.it, quali i possibili effetti sulla City, che invece di effetti potrebbe averne davvero tanti, perché scrive ISPI appunto, varierebbero a seconda dei settori coinvolti, però in generale le grandi società finanziarie hanno paura di possibili impatti sul fatto che Londra potrebbe non essere più quel hub finanziario che è stato fino adesso. E da non sottovalutare il fatto che il 20% del management che lavora nella City proviene da altri paesi dell'Unione Europea. E questo perché su tutta la questione della libera circolazione delle persone e dei diritti che hanno i cittadini dell'Unione Europea all'interno del Regno Unito si potrebbe aprire un negoziato. E come sempre il problema non è tanto che cosa succederà, ma l'incertezza finché non si saprà dalle vecchie regole quali saranno quelle nuove. È stata così una panoramica un po' breve, ma sicuramente avrete letto tutti, sentito tutti tantissime cose. Vediamo, noi continueremo con la nostra rassegna stampa settimanale del sabato a seguire l'evolversi di questa importantissima questione della Brexit. Ancora un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.